Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di un grande giornalista di cui ricorrerà l'anno prossimo il 60° anniversario della morte, ma lo ricordiamo in anticipo perché quest'anno ricorre invece il 70° anniversario di una delle sue creazioni più importanti, la casa editrice che porta il suo nome, la Longanesi. Lui è Leo Longanesi naturalmente, e per ricordarlo la casa editrice ha proposto un'antologia dei suoi scritti che è curata da uno dei suoi eredi ideali, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, ben noto agli ascoltatori di questa radio, e il libro si intitola Il mio Leo Longanesi, pubblicato da Longanesi, ovviamente 256 pagine, 18,60 €. Leo Longanesi è stato uno dei maestri del giornalismo italiano, diede vita a prodotti molto innovativi, alcuni leggendari, per esempio Omnibus, fondato nel 1937, e lui ebbero come maestro alcuni dei maggiori giornalisti degli anni successivi, primo fra tutti Indro Montanelli. Longanesi era un grande giornalista non soltanto come inventore di nuovi prodotti editoriali, ma per il fiuto giornalistico e per lo stile inimitabile, distillato spesso nei famosi aforismi, di cui qui c'è una piccola scelta. Ve ne cito uno che è sempre attuale, benché risalga al 1939. Longanesi parla di un signor B.C. e ne parla così: non capisce, ma non capisce con grande autorità e competenza. E poi troviamo nel libro soprattutto brani tratti dai suoi libri più famosi, scelti appunto da Buttafuoco, il quale è molto efficace nel far risaltare l'unicità di Longanesi. Longanesi, scrive Buttafuoco, è un artista di assoluta potenza versatile, non è un genere, non è un al modo di. Fece sì delle battute, tutte formidabili, ma ciò non fa di lui un battutista. Ma c'è sempre un cretino, purtroppo, aggiunge Buttafuoco, che al fiorire di un motto, di una spiritosaggine o di qualunque aforistica asserzione non si premuri di attribuirla a Longanesi. Buttafuoco prosegue poi sottolineando l'importanza del suo giornalismo, l'isolamento al quale fu costretto dal suo essere di destra, ma di una destra piuttosto anarchica e mai becera. E quindi chiediamo proprio a Pietrangelo Buttafuoco di illustrarci il suo Longanesi. Buonasera a Pietrangelo Buttafuoco. Buonasera. Pietrangelo Buttafuoco, nella sua introduzione a questo libro di Longanesi, lei dà dello scrittore una definizione impegnativa, dice che Longanesi appartiene alla stretta cerchia degli italiani assoluti. Che cosa intende? Intendo dire che esiste una precisa e specialissima natura della nostra Italia di essere universale, e cioè di poter avere una profondità tale che in ogni angolo del mondo risulta familiare, orecchiabile, perfino dolce, comunque segnante fortemente. Lo poteva essere nella grafica, come fece lui, lo poteva essere nella parola, come fece lui, lo poteva essere anche nella costruzione letteraria, come lo fece lui, e soprattutto nella visione, nella sua specialissima capacità di raccontare attraverso le immagini un uomo in cerca di un destino. Per lui era la modernità e noi la viviamo per come lui l'aveva costruita, quasi come un presagio. Fermiamoci su questo aspetto della modernità sul quale lei insiste nel suo libro. A un certo punto lo definisce uomo della modernità quanto mai altri. Sì, perché pur essendo radicato nel suo Ottocento, lui che comunque seppe preparare i moti novecenteschi e assorbirli tutti, aveva chiaro questo meccanismo, che era quello di introdurre in Italia tutte le velocità e le sintesi proprie della modernità. Avesse avuto la possibilità di imparare la tecnica cinematografica, sarebbe stato il nostro Bill Wilder. Ebbe a disposizione il giornalismo e col giornalismo riuscì a fare quella miscela formidabile che metteva insieme la politica, la prospettiva perfino architettonica, l'organizzazione editoriale, proprio come se fosse un trattato di sociologia a disposizione di tutti, tant'è vero che non ci fu nessuno della elite dell'epoca che non si rivolgesse a lui, tant'è vero che il giornalismo di oggi a lui deve tutto, ma proprio tutto, perfino il giornalismo istituzionale che fa finta di metterlo tra parentesi. A proposito di cinema, lui non lo amava tanto il cinema italiano, il cinema dei suoi tempi. No, perché il cinema cinema dei suoi tempi, però paradossalmente a leggere le pagine di Leo Longanesi sembra essere quello di oggi, una serie di cartoline illustrate messe in fila. Rileggendo gli articoli di Omnibus, quando faceva riferimento alla cinematografia nazionale, sembra proprio di leggere la recensione della Grande Bellezza, una serie di cartoline illustrate messe in fila, dove appunto si guarda, si contempla la stucchevole perfezione delle messe in posa senza che ci sia l'elemento forte, la vita, o meglio la commedia nel suo caso. Veniamo alla sua genialità giornalistica. Montanelli diceva che aveva un naso straordinario. Montanelli, che ricordiamo è stato uno dei suoi grandi allievi, uno dei pochi, e aggiungeva Montanelli che, come tutti gli artisti, andava a naso, a intuito, con un invisibile radar al posto del cervello. E poi lei introduce un altro tema di cui abbiamo già accennato, cioè il fatto che Longanesi porta la modernità, la cito, nel giornalismo, inventa un linguaggio immediato per la massa. Sì, questo perché lui riesce a essere contemporaneamente padre di ciò che deriverà poi da Indro Montanelli e da ciò che poi deriverà dall'Espresso, che è direttamente figlio dell'Omnibus di Leo Longanesi, e quindi il giornalismo che oggi ritroviamo nelle pagine di Repubblica. Lui fu quello che più di ogni altro volle portare gli italiani di fronte ad un meccanismo psicologico proprio della comunicazione. Basti pensare a quello che diceva a proposito dell'uso della fotografia. La fotografia si legge, un articolo si guarda, e nella icasticità dell'immagine aveva saputo risolvere quello che poi era uno dei bisogni fondamentali della comunicazione politica, che era quello di essere presenti e contemporaneamente partecipi della vita di tutti. Avesse avuto a disposizione internet, sicuramente avrebbe saputo costruire un anticipo sui tempi che è venuto a mancare alla nostra Italia. Il fatto stesso che il fatto stesso che la banda larga sia un'urgenza pari a quella che può essere l'acqua nel rubinetto, dà il senso di quello che poteva essere all'epoca per Longanesi il bisogno di fare giornale. Nell'etimo stesso, nel giornalismo, c'è la giornata, quindi la didascalia di tutti. Maestro di giornalismo, ma anche, lei aggiunge, maestro di disobbedienza, al grado massimo addirittura. Sì, certo, perché caratterizzò sempre la sua identità l'anticonformismo. Lui riuscì ad essere straordinario frondista durante il fascismo e poi fieramente anti-antifascista nell'antifascismo. Bisogna dire che il fascismo con lui fu molto più generoso di quanto lo sia stato poi l'antifascismo, tant'è vero che lui, che magari fronteggiava la censura, il Minkul Pop, i diktat dei gerarchi, durante poi l'epoca della cosiddetta libertà e della cosiddetta democrazia patì invece gravemente il pregiudizio e l'ostracismo di tanti. Malgrado ciò riuscì a fondare una casa editrice qual è la Longanesi, tuttora presente nel mercato con un catalogo di grande prestigio, che diventò poi il baluardo di libertà, dello spirito critico, toccando tutti i fenomeni della società. Basti ricordare come introdusse perfino l'ateismo attraverso le pagine di un grande bestseller qual è La storia della filosofia di Bertrand Russell. Riuscì ad essere in anticipo sui cataloghi raffinati alla Adelphi, proponendo dei classici come quelli di Oswald Spengler con Il tramonto dell'Occidente, e poi perfino i pruriginosi momenti di parapornografia, quando per prima attraverso i pocket portò i romanzi Osè. Uno su tutti ricordo quello Il riposo del guerriero, di cui c'è un'immagine meravigliosa di Totò ammiccante con questo libro tra le dita. Lei a un certo punto si avventura nel fare un parallelo tra l'Italia che descriveva e probabilmente disprezzava Longanesi e quella di oggi. L'Italietta albertina si specchia nell'Italia di oggi. Ecco, in questo rispecchiamento che cosa si trova? Beh, si trova il fatto che noi siamo passati da un bigottismo all'altro. Abbiamo lasciato le vecchie zie a cui faceva riferimento Leo Longanesi, con i centrini, con i bicchierini di rosolio, con i tremori e i timori affidati alla necessità di rintanarsi in casa ed evitare di dare più di tanto di se stessi all'occhio pubblico, siamo arrivati adesso a quest'epoca con le professoresse democratiche col cerchietto, ai culti, ai riti riservati, alle obbedienze in automatico. Figurarsi cosa avrebbe fatto Leo Lunganese di fronte a certe epifanie dell'obbedienza, quali per esempio la lettura della Costituzione di Roberto Benigni sotto la regia di un Fabio Fazio. Cosa avrebbe fatto lui di fronte a questa moda totale e rassicurante della gastronomia come ideologia dell'Italia di oggi? Cosa avrebbe fatto poi di fronte ad uno che uno dei fondamenti della sua polemica, quando dice: mai come oggi tanti asini dirigono i giornali e mai come oggi tanta asineria impera purtroppo nel giornalismo, dove non c'è spazio alcuno per la disobbedienza? Ed è l'Italia di oggi. Allora aveva ragione nel definirsi un reazionario. Andai una sera a cena dal commendatore Astolfo e rimasi quel che ero, reazionario. Sì, decisamente reazionario, più che altro per reagire. A proposito di libri, a un certo punto c'è un capitolo di questo libro, delle pagine di Longanesi, nelle quali fa una divertente anche disamina sulle ragioni per le quali, a partire dall'avvento del termosifone, si legge sempre meno in Italia, o si leggeva ai suoi tempi, e poi conclude col fatto che in realtà è crollato proprio un intero sistema di virtù, le chiama, quelle virtù su cui la stampa fondò il suo potere morale, e assiste preoccupato al nascere di quella nuova moralità pubblica, scrive Longanesi, capovolta, senza confini, che si chiama la pubblicità. Oggi cosa direbbe Longanesi? Magari rimpiangerebbe perfino la pubblicità. Adesso siamo in una dimensione in cui neppure 3 minuti di concentrazione riescono a sopravvivere, più che alla frenesia, all'incapacità di riflessione del lettore di oggi, del pubblico di oggi e dello spettatore di oggi. Saprebbe magari trovare una soluzione, come volle costruirla all'epoca, quando con un'abilità tutta di sintesi e di segno riuscì ad essere bravissimo anche nella scienza della pubblicità. Oggi è venuto meno l'alfabeto, è venuto meno il canone, è venuto meno un codice, e questo, e su questo Leo Longanesi avrebbe potuto soltanto offrire il suo estro e il suo genio di reazionario, cioè dando una scelta politica. Grazie a Pietrangelo Buttafuoco. Grazie. Curatore del mio Leo Longanesi. Buona serata. Buona serata. Un altro grande giornalista contemporaneo di Longanesi è Guido Piovene, che con Montanelli tra l'altro collaborò al Giornale, di cui Aragno pubblica Falsità delle confessioni, quasi un'autobiografia curata da Sandro Gerbi, 174 pagine, 15 euro. Gerbi qui ha raccolto sotto vari paragrafi cronologici gli scritti di Piovene dedicati a se stesso. È una scelta soggettiva, avverte il curatore, con testi che toccano registri vari, scrive lo stesso Gerbi. Come varia è stata la vicenda umana del loro autore. Si alternano quindi pagine più intime con altre più pubbliche, pagine più narrative o più saggistiche, più dettagliate o più indefinite, più calme o più scattanti. Così Gerbi. Ci sono anche scritti su momenti imbarazzanti, per esempio la lettera del 27 gennaio del 1962 agli amici della Federazione Giovanile Ebraica, nella quale Piovene fa il punto sull'accusa che gli era stata rivolta di aver redatto degli scritti antiebraici durante il fascismo, e qui Piovene dice delle parole dure anche nei confronti dei suoi colleghi intellettuali, accusandoli apertamente di opportunismo. E conclude il volume un saggio dello stesso Gerbi sui rapporti tra Montanelli e Piovene, che scrive: sono stati rapporti non sempre facili, nonostante poi la finale collaborazione. Montanelli scrisse così addirittura di Piovene negli anni 60: ha sbagliato tutto, ha voluto diventare il bardo di una democrazia progressiva, lui che aveva sulla sua fedina penale le macchie degli articoli antisemiti, ma che soprattutto della politica un profondo e aristocratico disprezzo. ha sognato di inserirsi nella gerarchia costituita con un alto grado, lui che è soltanto un esteta e un edoista, salvo poi naturalmente accoglierlo, come ricordavo prima, nel giornale che fondò lo stesso Montanelli 10 anni dopo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un altro grandissimo intellettuale, questa volta tedesco, uno degli autentici mostri sacri del Novecento, Thomas Mann. E ne parliamo in occasione della pubblicazione del libro di un esordiente, che è un avvocato olandese di origine tedesca, che si chiama Britta Böhler. Un avvocato famoso perché ha difeso in processi molto discussi, per esempio quello al leader curdo Ocalan e alla scrittrice somala Ayan Hirsi Ali. L'esordio normativo della Böhler si intitola La decisione, pubblicato da Guanda, 204 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Laura Pignatti. Credo di poter dire che questo sia uno dei libri più significativi di questa stagione. Qui si narra di 3 giornate, dal 31 gennaio al 2 febbraio del 1936, della vita di Thomas Mann. Ma furono 3 giornate molto speciali. Mann in quel periodo in esilio, in Svizzera, con la moglie e 2 figli piccoli, ha dovuto abbandonare la sua amatissima casa a Monaco, è stato privato di tutto, vive con i ricavi dei suoi diritti d'autore all'estero e sta faticosamente scrivendo il terzo volume di Giuseppe e i suoi fratelli. Naturalmente il nazismo gli ripugna, il fratello Henrik, i figli Erika e Klaus si sono già espressi pubblicamente contro il regime. Lui fino a quei giorni ha tentennato per prendere una posizione pubblica, non per viltà, ma perché non vuole recidere il legame con la civiltà tedesca. D'altra parte sente la responsabilità che gli compete proprio perché di quella civiltà ormai è uno dei simboli riconosciuti, tra l'altro forte di un prestigio e di un'autorevolezza internazionali che erano stati rafforzati dal premio Nobel che gli era stato conferito già nel 1929. Ma adesso Mann si è deciso, ha scritto una lettera definitiva affidandola a uno dei più importanti giornali di lingua tedesca, la Neue Zürcher Zeitung, e in quei 3 giorni, un venerdì, un sabato e una domenica, riflette sull'opportunità di pubblicare davvero la lettera. E Mann si dilania nel dubbio di aver fatto bene a scrivere la lettera, che farebbe ancora in tempo a ritirare. E dicevo prima dei rapporti che furono complessi di Mann con i figli Erika e Klaus, i maggiori dei 6 che ebbe, entrambi scrittori. Sentiamo dal figlio Klaus proprio la ricostruzione delle stesse giornate di cui ci parla il libro della Böhler, giornate decisive, lo sentiamo in queste righe nelle quali dà atto al padre, sia pure tardivamente, della serietà del suo travaglio. Mentre Heinrich Mann, Erika ed io da un bel po' eravamo messi all'ostracismo, la situazione di mio padre restava tuttora irresoluta, quantomeno sotto l'aspetto tecnico-legale. Dall'assunzione di Hitler al potere, egli non si era ancora espresso pubblicamente a proposito del regime, ma si sapeva che gli repugnava. Non aveva ancora risoluto incondizionatamente di emigrare, ma non pensava a far ritorno nella Germania nazista. Dopo un paio di mesi trascorsi nel Canton Ticino e un più lungo soggiorno nel sud della Francia, nell'autunno del 1933 aveva preso dimora a Kunschnacht, sul lago di Zurigo. I suoi libri non erano ancora vietati in Germania, ma a nessun tedesco sarebbe venuto in mente di richiedere in una libreria un libro di Thomas Mann, se non a bassa voce. Un autore indesiderato e sospetto, se non ancora ufficialmente diffidato. Non gli avevano ancora tolta la cittadinanza, ma richiedeva invano che gli rinnovassero il passaporto scaduto. Glielo avrebbero rinnovato, così suonava la risposta, ma in Germania. Così tentavano di adescarlo a tornare. Contemporaneamente però gli confiscavano tutti i suoi beni. I depositi in banca, la casa di Monaco con tutto l'arredamento, la biblioteca, le automobili. E la stampa allineata lo bersagliava di per di con assurde calunnie. I rappresentanti del pensiero tedesco, dal compositore Richard Strauss fino al caricaturista Olaf Gulbranson, si associarono per bollare di diffamazione del genio germanico la sua conferenza Dolori e grandezza di Richard Wagner, che la maggior parte di codesti signori, per giunta, non aveva neppure letto. Tornare in una tale patria? Non poteva pensarci, sebbene la lontananza dal paese natio fosse amara, molto più ancora per lui, così radicato nella vita e nella tradizione tedesca, che per i suoi figli avvezzi a un clima internazionale. L'idea di essere avulso, forse definitivamente, dal suo pubblico tedesco lo addolorava e lo offendeva. Perciò tentava di allontanare da sé l'inevitabile, finché era possibile. Erika e io invece incalzavamo. E forse fu un errore, che il temporeggiare fosse parte integrante della personalità spirituale e morale di nostro padre. E queste righe sono tratte dall'autobiografia di Klaus Mann, che si intitola La svolta, storia di una vita, e pubblicato dal Saggiatore, 464 pagine, 26 euro, tradotto da Barbara Allison. Mann Junior, per combattere il fascismo e il nazismo, si era addirittura arruolato con l'esercito americano, senza mai tradire la passione per le lettere, e naturalmente sentendo per tutta la vita il peso di un padre così ingombrante. Quella di Klaus Mann fu una vita agitata, febbrile, che culminò poi nella decisione di togliersi la vita a 43 anni. E di questa vita queste pagine ci danno la cronaca, una cronaca inquieta, come la definisce l'autore, che non rinnega le proprie origini, ma cerca disperatamente di inserirsi anche coi suoi libri nel mondo a lui contemporaneo. Torniamo a Mann padre. Abbiamo sentito prima la forza dei suoi legami con la cultura tedesca. Allora vi propongo due libri su due espressioni somme di quella civiltà. Il primo è Goethe, che troviamo nel libro di una giornalista e scrittrice specializzata proprio nella cultura tedesca, Paola Giovetti. Il libro si intitola Johann Wolfgang Goethe, la vita come opera d'arte, pubblicato da Pendragon, 294 pagine, 16 euro. Il libro della Giovetti si apre con due versi di Goethe, nel quale il poeta non nasconde la sua soddisfazione per la vita che è riuscito a costruirsi. Ce l'hai fatta, in qualche modo ci sei riuscito, ci provi un altro senza rompersi il collo, e commenta l'autrice. Goethe stesso ha descritto in questi due versi galoppanti e scanzonati la propria vita come gioco di abilità e destrezza, come opera d'arte. Quella di Goethe fu una vita lunga, lunghissima per l'epoca, ricca di esperienze, di curiosità che lo resero un mito in tutta Europa. Una vita che qui viene raccontata con passione, consentendoci anche di cogliere molti aspetti della sua opera. Una delle esperienze centrali nella vita di Goethe fu il lungo viaggio in Italia, che iniziò il 3 settembre del 1786, poi in Italia sarebbe tornato alcuni anni dopo. Quello fu un viaggio decisivo che permise a Goethe di sentirsi in libertà e di coltivare tutte le sue curiosità, come spiegano queste righe tratte dal libro di Paola Giovetti. La prima impressione che si riceve leggendo Viaggio in Italia e Diari e lettere dall'Italia è quella di una vacanza. Goethe è allegro come uno scolaro che finalmente si sia liberato della scuola, guarda tutto con curiosità, fa osservazioni di ogni genere, cammina lietamente a piedi accanto alla carrozza quando il sentiero è troppo ripido e i cavalli faticano. Gode la natura, il paesaggio, il cielo, le nuvole, le città e i borghi che attraversa. Studia le caratteristiche del terreno e delle montagne, raccoglie minerali, fa osservazioni geologiche e meteorologiche, compra la frutta dai contadini e la mangia a strada facendo, prende nota di tutto, nulla sfugge al suo sguardo attento e indagatore. Osserva con interesse la gente, parla liberamente con chi incontra, viaggia anche di notte per non perdere il tempo prezioso. Scrive diligentemente il suo diario di viaggio che giorno dopo giorno gli consente di restare in intimo e appassionato colloquio con l'amica lontana. Apprezza il fatto di essere solo e di doversi occupare di tutto. Trovarmi da solo è un vero bene, scrive. Perché sicuramente con dei domestici sempre al proprio servizio si diventa vecchi e incapaci prima del tempo. Adesso invece tutto mi rende più allegro e riesco in ogni cosa a ricominciare, per così dire, da capo. Poi c'è la musica e Wagner. Allora vi segnalo un libro di Karl Dahlhaus, che è stato un grande musicologo, forse il maggiore della seconda metà del Novecento, morto nel 1989. Questo libro si intitola L'idea di musica assoluta, è pubblicato da Astrolabio, 208 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Laura Dalla Piccola. È un libro del 1978 che prende in esame una certa interpretazione della musica, un'interpretazione tipicamente tedesca, che vede in quella forma d'arte una forma che nulla deve concedere all'idea di diletto o distrazione, che deve raggiungere invece l'obiettivo di farci perdere nella musica. Classica espressione dei fautori della musica assoluta è il comportamento di chi pensa che non si possa pretendere da lui di sottoporsi al fastidio di leggere il programma letterario di un poema sinfonico prima di un concerto, chi desidera che un concerto di Lieder la sala sia al buio, rendendo così impossibile leggere i testi stampati sul programma, chi ritiene superfluo imprimersi nella mente grandi tratti prima della rappresentazione l'azione drammatica di un'opera cantata in una lingua che non conosce. e autore di questa formula fu proprio Wagner, che pure fu ambiguo sul concetto. Insomma, è un libro importante per gli appassionati di musica che vogliano ripercorrere la storia di come la musica stessa sia stata intesa e di quale ruolo sociale abbia interpretato. Nel libro di cui abbiamo parlato di Britta Böhler si parla a un certo punto dell'incontro, della visita che Thomas Mann fece a un altro grande esiliato che si trovava in Svizzera, Hermann Hesse, il quale abitava già da molti anni in Svizzera sopra Lugano. E di Hesse vi segnalo la biografia che è uscita di Hugo Ball, che fu un suo contemporaneo, uno dei fondatori del dadaismo, morto nel 1927, intitolata appunto Hermann Hesse. È pubblicato da Castelvecchi, 190 pagine, 18,50 euro, tradotto da Stefano Masci, che ha anche predisposto l'introduzione, l'appendice biografica del grande e prolifico scrittore, che avrebbe poi vinto anch'egli il Nobel nel 1946. Infine un libro legato alla cronaca. Il 17 giugno inizia a Milano la settimana della moda, che è dedicata in questo turno all'uomo, e allora vi segnalo il libro di un ottimo divulgatore, lo scrittore storico Alessandro Marzomagno, che ha scritto Con stile come l'Italia ha vestito e svestito il mondo. È pubblicato da Garzanti, 198 pagine, 18 euro. Il libro è diviso in capitoli che riguardano specifiche parti del corpo, dalla testa ai piedi, e ci fornisce un escursus sorprendente sugli sviluppi della moda, anche sui suoi accessori, gli occhiali, i bottoni, o nel rapporto col nostro corpo, per esempio la barba e i capelli per i maschi o la mastoplastica per le donne. Racconta della storia di questa forma di civiltà nella quale l'Italia ha svolto e svolge un ruolo essenziale, di cui gli appuntamenti milanesi sono l'espressione forse più importante. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di grandi classici, quindi vi segnalo un'iniziativa di Einaudi per i ragazzi che non mancherà di suscitare qualche polemica, ma che può rivelarsi uno strumento utile per accostarsi ai grandi libri. Sono edizioni ridottissime di grandi capolavori, in poche parole il titolo della collana, i cui primi titoli sono Delitto e Castigo, raccontata da Sara Rossi, Il fu Mattia Pascal da Davide Morosinotto, e La coscienza di Zeno di Paola Capriolo. Ciascun libro ha 106 pagine, 8 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.